genocidio. L'intento di distruggere un gruppo razziale, nazionale, etnico, religioso in quanto tale. È in questo in quanto tale che c'è il segreto, innanzitutto per capire che cos'è il genocidio. E come si manifesta il genocidio? Attraverso atti di uccisione? Su 5 atti di genocidio, uccisione è uno. Non è che devi sterminare un popolo perché ci sia il genocidio. Quello è un'altra cosa, è un altro crimine. Atti di uccisione, infezione di sofferenza psichica e morale. Creazioni di condizioni di vita calcolate per distruggere. Che ne so, distruggere tutte le case? Sì, è vero, sono anche dei crimini di guerra. Distruggere tutti gli ospedali? Sì, è vero, sono anche dei crimini di guerra. Distruggere tutti i campi agricoli? Sì, sono anche dei crimini di guerra. Però quelli sono tutti assieme, la totalità delle condotte, la totalità dei crimini, la totalità delle persone in quanto tali. Ci sono riuscita a pensare che probabilmente l'intento di distruggere c'è. E pensate agli altri atti. Prevenzione delle nascite e sottrazione di minori. Questi sono i 5 atti di genocidio che la Convenzione riconosce, ma la cosa fondamentale è l'intento di distruggere e l'intento, per l'importanza delle parole, non è il motivo. Chi ha redatto quella Convenzione? Lo dico proprio nel modo più semplice possibile. Come spesso è nel diritto penale, i motivi sono irrilevanti. Tu puoi decidere di distruggere perché ti stanno antipatici, perché puzzano, perché sono una minaccia, perché li vedi tutti come dei terroristi, perché vuoi liberare gli ostaggi, oppure per tutti gli altri motivi. Non importa, nel momento in cui i tuoi motivi, perché sono motivi, non succede nulla, ma nel momento in cui quelli provocano la determinazione di distruggere, siamo già in area di genocidio. Ed è per questo che è dal 9 ottobre, che Israele perpetra il genocidio nei confronti del popolo palestinese. E vi dico un'altra cosa che è di complemento. La Convenzione sul genocidio punisce a chi è di obbliga a prevenire il genocidio, l'importanza delle parole. Vedete, diffidate, e prendeteli anche a pernacchio ormai dopo 2 anni, quelli che dicono ma non possiamo dire di genocidio perché non c'è stata la pronuncia della corte di nessuna corte. Allora, innanzitutto, se fosse vero questo, genocidio degli armeni, genocidio degli aborigeni in Australia, il genocidio dei nativi d'America, che poi sono 520 genocidi, perché sono 520 popolazioni diverse che sono state massacrate, affamate, distrutte con vari mezzi. Il genocidio dei First Nation, degli Inuit, che si è consumato in Canada, perché non c'è stata la Corte di Giustizia Internazionale, allora non si dovrebbe parlare di genocidio, ma rendete conto di che oscenità, di che aberrazione. Ma poi soprattutto la Corte dice che bisogna prevenire il genocidio. Come facciamo a prevenire se non ci rendiamo neanche conto di che sta succedendo? E guardate che la negazione del genocidio, negare il genocidio, è parte del genocidio stesso. Quindi, che cosa ci dice la Corte? Che cosa ci dice la Convenzione? Che c'è l'obbligo di prevenire il genocidio. Già, responsabili di tutti, meno qualcuno, perché dopo per esempio il Sudafrica, il Brasile, tutti quegli altri che si sono uniti alla Santo Sudafrica, sempre al Sudafrica che ha portato in tribunale Israele per genocidio, alla fine in realtà nessuno ha fatto nulla per prevenirlo. Il genocidio bisogna fermarlo. Anche qui tutto in chiaro. Bisogna anche punire chi incita al genocidio. Ora, negli atti della Corte, la Corte di Giustizia Internazionale, perché non segua tutto quello che succede a livello di sviluppi legali, giurisprudenziali, la Corte di Giustizia Internazionale il 24 gennaio del 2024 ha riconosciuto il rischio di genocidio. Questo fa scattare l'obbligo di prevenire. Ci sono già altri casi di giurisprudenza consolidata, si direbbe in Italia, che dicono nel momento in cui si prende consapevolezza che c'è il rischio di genocidio, ci si deve attivare. Chiaramente ogni Stato ha quei mezzi che ha, quei mezzi che può. È diversa la responsabilità dell'Italia o della Germania, terzo e secondo fornitori di armi ad Israele rispetto al Camerun, per dirci. Nel momento in cui La Corte riconosce il rischio di genocidio si è già pronunciata nel merito, perché se non ci fosse stato il rischio, la Corte, il procedimento non avrebbe neanche cominciato ad istruirlo. Ora, in quel procedimento che ha del 24 gennaio del 2024, i giudici hanno anche letto le motivazioni che listano una serie di cose, tra cui personalità israeliane che hanno incitato al genocidio, tra cui il presidente dello Stato di Israele. Siccome lui ha incitato al genocidio, quella è già una possibile notizia di reato. Non lo porti in giro nei tuoi palazzi, non gli stringi le mani, non lo tratti come...